che, infilato un sentiero, non arrivarono a una spianata in mezzo alla quale sorgeva una casina fatta di cioccolata e marzapane. Cioccolata e marzapane! Esclamerete voi. Proprio così, cari ragazzi. Immagino che piacerebbe anche a voi una casetta simile, non è vero? Salva, c'è qualcosa di sacro, intoccabile, inconfiscabile, che culo in situazione accettabile. Decidi di passare ogni giorno in cella, fieri difensori della Nutella. Come un mono, meno male che ad Alba c'è la fabbrica di cioccolato. Ogni desiderio così verrà realizzato. Siamo una grande famiglia, difendiamo il nostro padrone. In fondo per essere felici basta un'illusione. Come un mono, quali ferie, ma che sfruttato, ad agosto puoi fare il bagno nel cioccolato, e il contratto di 6 mesi verrà rinnovato, pensa quanto sei fortunato. Meno male che ad Alba c'è la fabbrica di cioccolato. Ogni individuo così può essere impiegato. Fai 3 turni, non incontri mai la tua famiglia, ma dai lo sconto allo spaccio, pensa che meraviglia. Come un mono lei. Con le nocciole turche Erdogan ringrazia l'umano il padrone. Se succede una disgrazia riesce a farti amare una condanna invivibile, e il suo olio di palma è sempre sostenibile. E prima o poi la contessa vorrà di nuovo i rocher. Sorridi, il prossimo ambrogio puoi essere te. Ambrogio? Signore? Avverto un leggero languorino. Ci fermiamo per prendere qualcosa? Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. Capisco, signore.